E allora, bentornati live, questo è il direttone di Radio Forte, direttamente dal Forte Prenestino. Noi oggi parleremo di onde medie, anticiperemo qualche contenuto sull'hack meeting, ma soprattutto ci ascolteremo in live dei tsunami che sono già pronti qua per iniziare a suonare fra pochissimo. Thank you. E allora eccoci qui prontissimi per ascoltarci i Tsunami, una band un terzo milanese e due terzi romana. A quanto pare il cantante era venuto a Roma per fare del cinema, si è ritrovato a fare solamente del teatro, ma soprattutto ha messo su una band che ora ci ascoltiamo. Grandi Tsunami, allora Grandi Tsunami direttamente live dal Forte Prenestino. E quindi, allora, quanto ci prendiamo sul serio? Adesso io ve lo devo chiedere, nel senso che io ho davanti delle persone, posso dire di una certa età, lo posso dire di una certa età. Ma non dici quale? No, io non l'ho detto, ho detto una certa età, infatti. E però che continua, immagino, perché vi vedo come suonate insieme, sbattersi per andare a fare le prove. Fare una cosa con piacere ma prendendola seriamente, no? Sbaglio? Non sbaglio, perfetto. E però farla per puro piacere. E allora la domanda è sempre quella, è una domanda retorica perché lo faccio anche io nella mia vita privata, ma perché? Beh, perché, perché ci piace, perché, perché nessuno ce lo chiede, ma noi lo facciamo lo stesso. perché ci sono delle canzoni che vengono fuori, che per fortuna ci va di suonare, e soprattutto, come forse ti dicevo prima, penso che liberarsi dell'idea perché per forza un percorso artistico, musicale, eccetera, eccetera, debba seguire delle tappe che portino a un arrivo che è celebrità, successo, piuttosto che guadagnarci i soldi, eccetera, eccetera. Le due cose non devono per forza essere legate insieme, perché nel momento in cui tu qualsiasi cosa la metti in un processo produttivo diventa un'altra cosa, c'è poco da fare. Allora noi cosa facciamo? Suoniamo. Se capita che qualcuno ascolta le nostre canzoni, viene ai nostri concerti, se capita che ci fanno fare dei concerti o che ci trasmettono sulla radio, a noi fa solo piacere. Dopodiché le nostre canzoni sono io, cioè le canzoni sono così, arrivano e vanno. Magari ci piacerebbe qualcuno ci rubasse le canzoni, se le ascoltasse, se le suonasse per conto suo, però cioè, le canzoni una volta che partono vanno. Allora, è sempre strano per me accorgermi quanto un discorso molto naturale, molto semplice come questo risulti strano, no? In effetti però poi viviamo dei giorni e un periodo in cui invece il successo, cioè fare una cosa è sempre votata al successo. Impegnarsi in delle cose è un'attività sempre votata ad un arricchimento più materiale che spirituale, e invece quanto cavolo è bello fare una cosa solo per il piacere di farla, quanto è liberatorio, quanto è più semplice, no? E quanto quindi è anche più libero, perché appunto non ti devi preoccupare di fare una cosa e dici ma piacerà così, venderà, ma piacerà a tanti o a pochi, ma devo comunicarlo così, cos'ha, assolutamente, ma è abbastanza assolutamente cattivante, ma io scrivo le canzoni sinceramente e poi ho voglia di farle sentire banalmente, è molto più, è proprio quasi banale. È quasi banale, a noi ci piacciono le cose quasi banali, ma in realtà banali non sono, perché dietro in realtà c'è un grande lavoro, c'è un grande sbattimento, ci sono ore di prove, nottate passate non sul divano di fronte alla TV, ma insomma meglio, con uno strumento in braccio. E quindi ci sentiamo un'altra doppietta di brani, che ci fate? I prossimi due brani sono invece dal nostro primo album, Albume, ormai di qualche anno, 3-4 anni fa, e in sequenza saranno autoprodotto. Noi naturalmente siamo sempre autoprodotti con Letta e via. È quasi scontato, se no non eravate qui, diciamo. Quindi il primo brano si intitola Guerra, e ci tengo a dirlo, anche se poi forse il testo, se si capisce, lo approfondisce. È un po' contro il concetto stesso che è stato molto diffuso negli ultimi decenni di guerra di cultura. Queste culture che quando si incontrano si stanno antipatiche, si odiano, eccetera, eccetera. Mentre invece secondo me, ma è un discorso naturalmente stratificato e complesso, tecnicamente, cioè secondo me la cultura quando si incontra non fa la guerra, proprio perché è una cultura, c'è qualcosa da dire, ha molto da ascoltare, da imparare, da scambiarsi. La guerra di cultura è un modo di dire tipo Everlasting Freedom o ste stronzate qua, secondo me. Va bene, allora ci sentiamo questi due brani, poi parliamo del concetto di autoprodotte e di indie, perché mi sa che ci siamo trovati. Su Nomi, direttamente in diretta dal Forte Prenestino. Non è il diverso, guai è sempre lo stesso, per migliorare. Questo, il prossimo brano si intitola Cane. Thank you. questi applausi sono per i suoi nomi, ovviamente, perché ci stanno facendo divertire qua direttamente dal Forte Prenestino. Allora, sono un po' di settimane che girano girano delle magliette, cioè, c'è un po' di pubblicità, insomma, c'è una campagna di raccolta fondi per questa faccenda che sostanzialmente si intitola tutta quanta "Sono stato indie prima di te". La risata mi fa capire che ci siamo già capiti. Io nel vedere i suoi nomi suonare in questo momento un po' mi consolo, perché vedo delle persone che suonano con il piacere di suonare senza fregarsene granché, come dicevamo prima, di raggiungere un successo, di cavalcare un'onda, di insomma approfittarsi di uno stile, come è stato detto tante volte su alcune recensioni, loro fanno quello che vogliono fare e poi sti cazzi. Questo è una cosa che mi consola, perché insomma si ritorna a suonare per suonare. Li abbiamo invitati così all'improvviso, con un preavviso di 2 giorni. Quando è che vi abbiamo contattato? Venerdì, sì. Venerdì, oggi è domenica, così, d'amblè. Voi siete arrivati qua e ci avevate il live pronto. No, in realtà non era pronto, spero che non ve ne rendiate troppo conto. Ma noi purtroppo negli ultimi mesi, oltre ad esserci visti poco ovviamente, poi insomma abbiamo lavorato su mix, su cose eccetera, insomma, quindi questo repertorio lo stiamo riscoprendo con voi. Lo state rodando live, che è una cosa che si faceva una volta, ma non solo pre-Covid, cioè nel senso pre-indie, questo nuovo... esatto, pre. Capito? Quindi mi pare proprio tutto molto sano. Vi è arrivata della birra. Ci è arrivata della birretta, molto indie. A te non... molto indie. Ah, lui se l'è già finita. Sì, no, riguardo... Volevi dire qualcosa riguardo essere indie prima o dopo di qualcun altro? No, dimmelo tu che cosa vuol dire essere indie prima o dopo. Noi purtroppo, sì, come dici tu, abbiamo una certa età. Che non no, io non l'ho detto che è una certa età. No, hai detto che è certa. Un'incerta età. No, nel senso che ma bastano pochi anni per vedere come cambiano le cose, come cambiano le definizioni, come cambiano i termini, eccetera. Negli ultimi anni si è cominciato a parlare in Italia di musica indie con un significato completamente nuovo per noi che appunto ascoltiamo musica da prima del 2000. Aggiungerei quasi strano. E quindi sì, sarebbe doveroso quantomeno fare dei distinguo, perché adesso noi non sappiamo più come chiamare, che ne so io... Non lo so, i Sonic Youth, non lo so, Flaming Lips, non erano indie, non si può chiamare indie. Bisogna dire indie italiano per dire che è un'altra cosa, in pratica, non lo so. Allora, c'è una campagna in realtà in piedi, partita dal cantante degli Offlaga di Scopax, che immagino voi... sappiate di chi parlo, che ha proprio lanciato questa faccenda "Sono stato indie prima di te", proprio per rimarcare, no? Per rivendicare il fatto che l'indie una volta in Italia era una roba fatta di persone che si sbattevano, facevano, si inventavano delle cose personali, no? Senza seguire delle mode, e quindi proponevano la propria espressione, il proprio linguaggio, una forma musicale. Oggi è diverso, cioè è diventata una categoria, è quasi una categoria di YouPorn praticamente. Quindi, cioè, è così, è standardizzato, cioè no, devi parlare, devi mettere dentro un brano il nome di una città. Voi avete un brano con un nome della città? No, non ancora. Siamo... No. Sì, ce l'avevamo in programma, però non lo so, scrivetela una canzone che si intitola Messico, che ne so. No, dovevamo fare Arizona, c'era stata proposta, poi non se ne è fatto nulla. Perché... No, è incredibile, perché comunque ci sono degli standard proprio, è quasi scientifico, cioè se ci metti dentro... Il nome di una città ha più successo, è più radiofonico, è proprio tutto quanto studiato. Quindi a me fa molto piacere, mi dispiace per chi ci sta ascoltando che non possano vedere questa band che suona e semplicemente si guarda in faccia mentre suona, che è la cosa più naturale del mondo. se suonate uno strumento, se non suonate uno strumento imparate a farlo, perché poi suonare insieme significa quello, ed è piacevole ed è bello, c'è un'energia che poi traspare nel guardare una band live. Torneremo a guardare dei concerti, spero. No, che dici, Maurello? Io volevo solo ricordarvi che potete darci feedback sulla diretta sul canale Telegram che abbiamo, Radio Forte, e scriveteci lì, è il nostro punto di contatto con i nostri ascoltatori. È bello Marello, perché tutte le volte che lo tiro dentro all'improvviso lui è sempre pronto. E comunque, grazie Tsunami, e mo ci facciamo un altro giro di brani con i Tsunami, poi passiamo... Ed è sempre bello suonare al forte, dai, è sempre bello stare al forte, venite al forte, venite al forte, esatto, venite al forte, anche se l'ho trovato chiuso, provate a scavalcare. E allora, andiamo avanti con i Tsunami, dopodiché parleremo un po' di hack meeting e di cose interessanti e particolari, perché qua, da queste parti, non siamo mai banali. questi sono brani appunto di qualche anno fa, un po' in naftalina, ma insomma li abbiamo tirati fuori. Ok, allora grazie Tsunami, mi pare di aver capito che voi state registrando un brano, ma ci fate sentire ancora qualcosa, ci avete ancora qualche brano? Sì, se vi fa piacere, sì. Okay. Anzi, a proposito, ti ci chiedevi del disco, sì, stiamo registrando, abbiamo registrato una prima tranche di brani all'inizio dell'anno che sono in fase di lavorazione adesso, mancano ancora delle parti, e poi registreremo degli altri spero entro la fine dell'anno. Quello che, se volete, vi suoniamo adesso per esempio deve essere ancora registrato, quindi... Allora adesso noi ci sentiamo un nuovo brano dei Tsunami, poi dopo cambiamo argomento perché c'è come vi dicevo all'inizio uno spazio nuovo, che nuovo non è, è quel selettore AM che avete su qualche amplificatore, qualcuno ce l'avrà, e andremo a scandagliare questo nuovo spazio che stiamo andando ad occupare in varie realtà in giro per l'Italia. Adesso ci sentiamo un altro brano dei Tsunami, grazie ai Tsunami, intanto vi ringrazio anticipatamente. E poi ci colleghiamo con un po' di persone che ci racconteranno questa faccenda delle onde medie direttamente dal Forte Prenestino. Allora, il prossimo brano si intitola Vero Falso. Grazie a tutti voi, grazie per chi è rimasto all'ascolto nonostante taglie forte ad ascoltarci. Sei finto, io non sono vero. È più credibile chi mente davvero. Tu Allora, grazie. Allora, grazie mille ai Tsunomi direttamente live dal Forte Prenestino. Noi ora, oltre a salutarli, vi ricordiamo insomma i loro contatti. Loro si chiamano Tsunomi. Fra un po' esce qualcosa di nuovo da parte loro. Quindi rimanete in contatto con loro. Ora ci sentiamo un brano, nel frattempo imbastiamo un collegamento, nel frattempo che voi vi sentite un brano, imbastiamo un collegamento per parlare di onde medie, così vi facciamo capire di che cosa si tratta. A fra poco. Pretty. Lloyd. Ok, senti un gran casino, però non si sente. Flat on my back. They say our world is built with endeavor, that every man is for himself. Wealth is for the one that wants it. Paradise, if you can earn it. History is the reason I'm washed up. Ok. Blinker. Paralyzed. Ok. Flat on my back. Vedi un po' ora. My ambitions come to nothing. Ma non forse ci servirebbe. I wanted now seems just a waste of time. Però can't make out what has gone wrong. Good at what I did. The crows come home to roost, and I'm the Duke. Siamo di nuovo in diretta dal Forte Prenestino, direttamente dalla Piazza d'Armi. Io vi volevo raccontare